Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. In collaborazione con Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno e buona domenica delle palme, sono Camilla Lattanzi assieme alla redazione di Restiamo Animali, composta da Elisa Moretti, Beatrice Montini, Giuseppe Coco e Lorenzo Guadagnucci. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che hanno condiviso con noi riflessioni e pensieri cruelty free scrivendo a restiamoanimali@controradio.it. Elisa, vuoi presentarci il sommario di questa trasmissione? Oggi parleremo di sacrifici consumistici e crudeli e di cattolici vegetariani, di pasti pitagorici e luculliani, presentandovi tre ghiottissimi menù pasquali davvero gentili. Conosceremo da vicino la vita emotiva delle capre e racconteremo di come un capretto rachitico ha salvato la vita di suo fratello. Presenteremo un romanzo da premio Nobel che contiene un discorso pubblico coraggioso e la storia della scimmia Pietro il Rosso, già personaggio di un libro di Kafka. Vallauri sosterrà con stile filosoficamente rigoroso quanto sugli animali i legislatori siano contraddittori. Infine vi proporremo di inserire nel vostro vocabolario la parola animalismo e vi daremo le istruzioni per utilizzarlo nella giusta accezione. Restando in tema religioso, Giuseppe, confessaci quello che sai sui simboli pasquali e aspergici di musiche paradisiache. Domenica delle Palme che anticipa Pasqua, ricorrenza che dovrebbe farci riflettere sulla morte e la rinascita, una festività che ingloba tradizioni religiose e popolari. Simboli di questa festa sono l'agnello e il suo sangue con cui gli ebrei imbrattarono le porte delle case per salvaguardarsi dal passaggio dell'angelo della morte che sterminava i figli maschi egiziani, fenomeno che poi dava il via alla fuga e ritorno a casa. L'agnello è anche una rappresentazione di Cristo che si immola per la salvezza degli uomini e passa dalla morte alla resurrezione. Ma abbiamo anche la colomba pasquale, simbolo dello Spirito Santo e di pace, da non dimenticare naturalmente l'uovo che è la manifestazione della primavera e della rinascita, embrione di nuova vita. La scaletta di oggi è un viaggio in questo universo variegato che inizia con il suono mistico e sensuale del sitar indiano di Anushka Shankar che sentiamo in sottofondo. Giubileremo ed esulteremo con la voce appassionata di un'attivista dei diritti degli omosessuali, oltre che vegana, che prima ha sconvolto il mondo della musica country e che maturando è riuscita poi a creare uno stile personale. Procederemo con gli agnelli elettronici dell'Arcangelo Gabriele, che sulle sue ali ci porterà nella lontana Islanda per ascoltare i gorgheggi di Sigur Rós. Martin Gruniger darà ritmo alle parole vallauriane e all'agnello di Dio. E finiremo ascoltando una delicata Pasqua etiope dall'ascetico Battiato. Se tutto questo c'entra con la Pasqua, lo potete scoprire nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com e nella homepage di Controradio. E ci avviciniamo alla Pasqua. Tra una settimana, qualunque sia la sensibilità di chi ci ascolta, la notizia è che 7 milioni di agnelli e capretti verranno macellati e serviti in tavola nelle famiglie italiane. Un dato impressionante che non può lasciare indifferenti. Noi, come redazione di Restiamo Animali, abbiamo una posizione precisa in merito, quindi oggi faremo una piccola eccezione rispetto allo stile tutto sommato leggero che abbiamo tenuto fino a qui, perché il fenomeno non ammette, pensiamo, edulcorazioni e sarebbe sbagliato minimizzarne la portata. Vi invitiamo dunque all'ascolto del nostro editoriale contro una Pasqua consumista e crudele che, secondo noi e molti altri, può e deve cambiare. Scritto e letto dal nostro Lorenzo Guadagnucci. Susanna Tamaro, scrittrice di fama e donna di fede, ha scritto a proposito della Pasqua queste parole. L'altro giorno mi ha chiamato un'amica che lavora vicino al mattatoio. Mi sono messa i tappi, mi ha detto, ma non serve a niente. Vengono scaricati ogni giorno a centinaia e urlano con voci da bambini, disperate, rauche, in preda al terrore. Ma a parte me, nessuno sembra farci caso. In fondo ogni anno è così. È la vita, è la tradizione, è Pasqua e questo è il rumore della Pasqua. Già, perché la Pasqua è soprattutto un pranzo tradizionale, una mangiata di quelle che si fanno di rado, con l'abbacchio trionfante in mezzo alla tavola, un abbacchio ridotto a prelibatezza culinaria, a segno di una cultura gastronomica mai tradita, spogliato da ogni valenza che superi il tratto gastrointestinale. Ma in quei belati, in quelle urla, in quella vuita che è pura innocenza, Non è forse celata la domanda più profonda sul senso dell'esistere? Così Susanna Tamaro. E come darle torto? Questi sono giorni tragici. Si avvicina una giornata di festa, la Santa Pasqua dei cattolici, e le strade sono solcate da mezzi di trasporto con migliaia, milioni di giovanissimi individui di pochi mesi che vengono portati verso i macelli. Sono gli agnelli che domenica prossima finiranno nei piatti degli italiani, 7 milioni di cuccioli di pecore e capre, annientati per onorare una giornata che secondo gli intenti sarebbe consacrata alla pace e all'amore universale. Gli agnelli, paradosso nel paradosso, sono simbolo di innocenza e purezza. Per il loro aspetto indifeso e benevolo, sono l'immagine preferita nell'iconografia che accompagna i bambini. Popolano cartoni animati pupazzetti, campeggiano su pigiamini e vestitini, su quaderni e astucci. Ma quando arriva la Pasqua, tutto viene dimenticato, cancellato. Non c'è pietà per loro. Forse sono proprio la purezza e l'innocenza che vengono immolate per mostrare venerazione alla divinità, ma che senso può avere una cosa del genere? Il sacrificio animale nulla aggiunge e anzi molto toglie allo spirito religioso della festa, e oggi è diventato prassi consumistica. Non sono solo i cattolici praticanti a partecipare alla mattanza pasquale. In loro compagnia c'è il consumatore qualunque che trova normale seguire la tradizione religiosa del pranzo a base d'agnello, anche se indifferente al credo religioso. Trova la carne d'agnello al supermercato, come un qualsiasi prodotto di stagione, e la mette nel carrello, senza farsi domande, senza sapere davvero che cosa sta facendo, perché lo sta facendo. Ci pare che la festa religiosa sarebbe meglio onorata e più coerentemente praticata se non comportasse terrore e morte per tante creature. Si dirà che le religioni vanno rispettate e con esse le loro tradizioni. Si dirà che la religione cattolica non prescrive una dieta vegetariana e anzi ritiene che gli animali siano a completa disposizione dei capricci dell'animale umano, che ha il potere di disporre come vuole delle vite altrui. Tutto vero, ma è anche vero che nella Chiesa cattolica c'è chi rifiuta i sacrifici animali e anche l'alimentazione a base di animali, senza per questo venire meno, anzi, ai precetti religiosi. Esiste un'associazione dei cattolici vegetariani e ci sono teologi come Luigi Lorenzetti, collaboratore del settimanale Famiglia Cristiana, che hanno a lungo riflettuto sul rapporto con gli animali, dando un'interpretazione del precetto non uccidere che nulla confligge con i comandamenti della Chiesa e anzi ne esalta il significato più profondamente pacifico e antiviolento. Il comandamento non uccidere, scrive Lorenzetti, contrariamente a un'interpretazione che tradizionalmente è stata data, si estende anche agli animali. Infatti si dice non uccidere e non semplicemente non commettere omicidio. L'essere umano non ha il potere di creare la vita, non ha quindi il potere di toglierla. È necessario il passaggio da una mentalità utilitarista a una mentalità gratuita. Le creature, prima che utili, sono valore per se stesse e dicono appartenenza al creatore che le ha create. Inoltre, continua Don Lorenzetti, è necessario il passaggio da una mentalità padronale a una mentalità di amministratore e di servizio. Occorre rivedere una concezione di tipo piramidale in cui l'essere umano sta, per così dire, in cima, sotto e in basso tutte le altre cose, elementi naturali, piante, animali. Il giorno di festa, diciamo noi, è per definizione una rottura della routine, un momento di pausa e di riflessione. L'invito allora è di fermarsi a pensare, di dare un'opportunità al senso di giustizia e alla voglia di cambiare che è nel fondo di ciascuno di noi. E la dedica della puntata di oggi è per un santo. Noi cinque siamo tutti profondamente laici e dalle nostre bici, vespe e auto hanno sventolato gli stracci color fucsia che Controradio ha lungamente diffuso. Questo non è in contraddizione con la segnalazione di questo santo, che rappresenta una breccia all'interno dell'ambiente cattolico in quanto vegetariano. San Giovanni Crisostomo. L'Associazione dei Cattolici Vegetariani lo segnala fra i suoi padri spirituali e ne riporta il pensiero, racchiuso in questa frase. Mangiare carne è innaturale e impuro. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. E per fortuna ci sono anche pecore e capre che non hanno da temere la Pasqua, perché vivono libere e protette da animali umani fuori dalle logiche conformiste. Siamo tornati all'Ippoasi per conoscere da vicino Pierino e Sogno, due fratelli di temperamento con una storia molto speciale. Qui siamo in zona Caprette. Il recinto è tutto unico e gli animali vivono tutti insieme, però effettivamente hanno magari dei punti dove in certi momenti della giornata soggiornano di più. Qua appunto siamo al sole e anche le caprette adorano stare a ruminare al sole, e quindi ci sono dei momenti della giornata in cui si mettono tutte insieme distese al sole a sonnecchiare e a ruminare, sì sì. E qua abbiamo le prime due capre che sono arrivate poi all'ippodio, ora in questo momento ce ne sono invece 12 e sono arrivate da tante, hanno tantissime provenienze diverse, sono di tantissime razze diverse, e queste sono le prime due che si chiamano Sogno e Pierino e vengono da un allevamento nel nord Italia. Sono state salvate da una ragazza animalista che ha un accordo con questa allevatore che quando ci sono degli animali che magari appunto per qualche sua convenienza non vuole allevare, le praticamente le regala in modo che lei possa appunto salvarli. E questi due capretti, questi due agnellini, erano nati, uno dei due era nato rachitico, e quindi praticamente l'ha regalata a questa ragazza e gli ha regalato anche il fratello, perché appunto di solito i parti sono gemellari delle caprette. Grazie al fratello rachitico si è salvato anche quell'altro, e quell'altro, l'altro che noi abbiamo chiamato Pierino, perché il fratello rachitico si chiama Sogno, che tra l'altro adesso è cresciuto come l'altro, quindi non si vede nessuna differenza. E invece l'altro fratellino si chiama, l'abbiamo chiamato Pierino, perché nei primi 3 giorni che ha vissuto all'ipposi ne ha fatti talmente tante che alla fine l'abbiamo chiamato Pierino. E in effetti è risultato poi un carattere abbastanza particolare, perché le capre sono animali molto schivi, tant'è vero che la maggior parte non si fa toccare qua dalle persone, mentre Pierino da solo, di sua spontanea volontà e primo tra, appunto, da tutte le capre, ha deciso di farsi toccare dagli esseri umani, e adesso è un capretto veramente coccolone, proprio lì ti viene dietro per farsi toccare, per farsi grattare, addirittura se tu non gli dai importanza ti chiama con una zampa, ti mette una zampa in mano proprio, e sta trasmettendo un po' questa cosa anche prima al fratello e poi anche altre capre. Quindi la vita emotiva di Pierino è una vita abbastanza, diciamo, ricca di relazione, di compagnia, di ricerca di un contatto. Sì, io rimango molto stupito dalle relazioni di vicinanza che ci sono nel gregge delle capre, ad esempio tra parenti. Per esempio io vedo che appunto questi due capretti che sono nati insieme, che sono fratelli, sono inseparabili, mantengono negli anni questo rapporto di parentela fortissimo, per cui appunto sono 13 in effetti tutti insieme e formano un gregge che in certi casi è molto unito, se c'è da scappare scappano tutti insieme, spesse volte appunto si raggruppano nello stesso posto, però appunto ci sono degli individui che sono parenti e che stanno praticamente, hanno una vita quasi in simbiosi, stanno sempre insieme. E io mi sono accorto del legame forte che si può stabilire fra capre in occasione appunto della morte purtroppo di una di queste capre. E noi avevamo una capra che era venuta insieme alle due mucche che abbiamo, questa capra era già molto anziana e nel suo ultimo anno di vita libera, poverina, aveva trovato sia Pierino e appunto e Sogno, che erano cuccioli, e quindi l'ha fatto un po' da mamma. E poi un altro capretto che era qua, che pur essendo appunto castrato però era maschio, e che si era molto affezionata a questa capra. E io avevo notato che l'anno scorso c'era un momento in cui, siccome le capre sono invece molto vivaci, vanno sempre da tutte le parti, si muovono, fanno, alle volte si trovano anche fuori dal recinto, si arrampicano, esatto, ne fanno di tutti i colori, erano molto invece molto molto tranquille sempre nello stesso punto e non si muovevano mai da questo punto qua. E poi mi sono accorto che praticamente c'era questa capra ormai anziana che praticamente è arrivata alla fine e faceva fatica a muoversi, e questo capretto, questo maschio, stava vicino a lei, però siccome questo capretto è padre di altri capretti, questi altri capretti stavano vicino al maschio, quindi c'era tutta una catena, per cui tutti alla fine tutte le capre stavano lì perché questo capretto non si muoveva per stare accanto alla capra, gli stavano facendo una sorta di veglia, insomma una sorta sì, di... sì, c'era tutto questo legame, per cui se questo non si muoveva non si muoveva neanche l'altro. E quando infatti il giorno che la capra poi appunto è morta di vecchiaia, tutte le altre capre, cioè io la mattina stessa ho trovato la capra morta e tutte le capre in giro, perché si era sciolto questo obbligo di stare lì. L'unico che è stato un po' lì è stato questo capretto, che ha continuato a chiamarla per tutto il giorno, e poi vabbè, poi chiaramente si è rassegnato. E quindi c'è proprio questo legame tra consanguini che poi lega tutto il gregge uno dall'altro. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E in preparazione alla Santa Pasqua, la rubrica Il Pasto Gentile sarà oggi in versione oversize, affinché possiate trovare tra le nostre variegate proposte quella più adatta a voi e ai vostri parenti e amici e compagni di convivialità. Armatevi di carta e penna e preparatevi a una trascrizione modello stenografo anni 60. Vi proponiamo tre suggestioni culinarie vegane per il pranzo pasquale: una etnica, una tradizionale e una terza che predilige la semplicità. Menù numero 1. Iniziamo con un'idea etnica per chi vuole essere fuori dagli schemi anche nei giorni di festa. Dedicato all'homus fricchettonis. Più che altro a chi voleva essere lontano, visto che il proverbio dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, ma che alla fine è rimasta a casa. Sempre meglio a casa a cucinare che in orissa a farsi rapire, no? E infatti proponiamo un couscous con falafel e salsa di yogurt. Volevi dire yogurt di soia, vero? Mais oui, somme son dire. Ingredienti: per i falafel 250 g di ceci secchi. Ma se usate quelli in barattolo già lessati, noi non ci sa male. No, sono controindicati, perché se no vengono delle cose squaccherose. Uno spicchio d'aglio, una cipolla, del prezzemolo, due cucchiaini di spezie miste con cumino. Piano con codesto cumino. Coriandolo, non siamo a carnevale ma va bene uguale, cannella, noce moscata, sale e pepe, come i miei capelli, e olio per friggere. Per la salsa di yogurt abbiamo un barattolo di yogurt di soia, uno o due cucchiai di tahin, che è una salsa di sesamo. Ah, questa suona davvero esotica. Comunque la vendono anche alla Hoppe. Il succo di mezzo limone, un cucchiaio di olio extravergine, sale, origano, menta, timo, curry, noce moscata. E poi naturalmente ci vuole la semola per il couscous. Preparazione: mettete ceci in ammollo per 16 o 20 ore, sciacquarli e scolarli bene, inserirli nel mixer con gli ingredienti e tritare il tutto. Quindi fate un remix. Fa riposare il composto in frigorifero per almeno un'ora. Brrr. Brrr. Ma che fai? Sto riposando in frigorifero. Ma che sei, remix? Con le mani inumidite, formare delle polpettine e friggerle in olio bollente per 2-3 minuti, finché sono dorate. E il penetrante profumo di cumino sarà stabilmente integrato con le vostre passamanerie. E naturalmente le vostre ascelle. Per la preparazione del couscous, visto le numerose varianti e anche per motivi di tempo, vi consiglio di seguire quelle riportate sulla confezione o quelle che eseguite abitualmente. Preparazione della salsa di yogurt, di soia naturalmente. In una ciotola mettere lo yogurt, un pizzico di sale, il limone, le spezie, l'olio e girare, facendo diventare il tutto omogeneo. Dopo unire il tahin e infine origano e timo. Girare, rigirare fino a quando il colore della salsa non sarà omogeneo e la consistenza cremosa. Servire le polpette con la salsa, il couscous e anche un po' di insalata. Questo è un piatto unico, completo, che mette felicemente d'accordo commensali e agnelli. Beh! Menù numero 2. Piatto tradizionale per chi non vuole rinunciare ad esibizioni acrobatiche e a sole fornelli, per chi è disposto a combinare etica e tradizione, ecco che vi presentiamo le lasagne con ragù di seitan. Ingredienti: sfoglia per lasagne versione cruelty free, comprate o fatte in casa. Che tradotto vuol dire senza ova? Ragù di seitan, la ricetta l'abbiamo assaporata qualche puntata fa. Verdura di stagione, mandorle. Per la besciamella, 500 g di latte. Di soia. 50 g di farina, 2-3 cucchiai di olio di semi di girasole, noce moscata, sale, pepe. Oh, ma niente cumino a questo giro. Stavolta lo eliminiamo, niente cumino. Preparazione: scaldate il latte di soia, poi in una pentola mettete a scaldare l'olio e pian piano incorporate la farina e così avrete un impasto denso. A questo punto incorporate pian piano il latte di soia caldo, girando con una frusta o una forchetta, otterrete una crema liquida. Continuando a mescolare, aggiungete noce moscata grattugiata, sale e pepe. Spegnete quando la crema è della consistenza voluta. Ricordatevi che freddando diventa più denso. Occhio all'effetto cementite! Se vogliamo rendere le nostre lasagne più ricche, possiamo aggiungere delle verdure cotte o crude, ma tagliate molto sottili. Adesso che abbiamo i nostri condimenti possiamo fare gli strati. Si possono aggiungere delle mandorle per decorare o altra frutta secca. Basta avere fantasia. In che reparto la trovo la fantasia? No, perché l'inserviente non me l'ha saputo indicare. Una volta preparate, mettetelo in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti circa. E siamo alla ricetta numero 3. Un piatto tranquillo e salutista per chi considera la Pasqua una domenica come tutte le altre e non vuole appesantirsi in preparazioni estenuanti e digestione lente, proponiamo quindi uno sformato di riso e verdure. Oh, si dirà che non si è pensato a tutti. Ingredienti: una tazza di riso integrale, verdure di stagione, una cipolla, una carota, sedano, 400 g di polpa di pomodoro, 400 g di besciamella, sale, peperoncino, timo, salvia, olio, noce moscata, chiodo di garofano. Mi manca tanto il cumino. Ma se vuoi lo puoi anche mettere, non ci sta male. Preparazione: mettete a cuocere il riso in acqua in proporzione di una tazza di cereali e 3 di acqua, con un pizzico di sale grosso, una spolverata di noce moscata e qualche chiodo di garofano, che poi toglierete a cottura ultimata. Mondare, lavare e tagliare le verdure, poi le tritate in uno degli aggeggi che tagliano, tritano e sminuzzano. Oh, io c'ho solo la mezzaluna e non è nemmeno rossa, che va bene pure quella. Se hai tempo e buoni muscoli, va bene anche quella. Mettete un giro d'olio in un tegame e poi fate rosolare poco il trito. Come comincia a sprigionare il suo suadente profumo, mettete la polpa di pomodoro, aggiungete un po' di sale e fate cuocere. Preparate anche la besciamella come descritto prima o secondo il vostro metodo. Quando il riso è cotto, lo scolate e poi lo sciacquate. Incorporate pomodoro e besciamella tenendone da parte un po'. Mescolate omogeneamente e disponete il composto in una pirofila che avete precedentemente oleato e dove avete messo un paio di cucchiaiate di pomodoro e besciamella. Uniformate il composto, mettete le salse rimaste e, se volete decorare con delle mandorle, fatelo pure. Infornate per una ventina di minuti. Tutti questi sono comunque piatti unici che, se volete, potete arricchire con una varia e colorata insalata. Consigli per i dolci: una cosa tipicamente pasquale sono gli agnellini di marzapane di ispirazione sicula, ma abbiamo scoperto anche ligure, oppure dei biscotti di mandorla e pistacchio glassati con cioccolata fondente. Sempre sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com troverete ricette per quelli che affrontano la Pasqua con un'unghia incarnita o un menù speciale low cost per quelli che c'hanno una cartella Equitalia da pagare. restiamoanimali.wordpress.com. Perché io sgrano americano. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Oggi parliamo di un libro di J.M. Coetzee, scrittore sudafricano, autore di questo romanzo La vita degli animali, nel quale immagina la figura di una scrittrice, una romanziera popolare, Elizabeth Costello, che viene invitata a parlare di letteratura in una città universitaria nella quale insegna anche il figlio, professore di fisica. Elizabeth Costello stupirà tutti, il figlio e gli uditori della conferenza, perché anziché trattare l'argomento che ci si aspettava da lei, un tema letterario, parlerà dello scandalo della crudeltà quotidiana degli uomini verso gli animali. Mamma, credi veramente che le lezioni di poesia porteranno alla chiusura dei macelli? No. Allora perché farle? Hai detto che sei stanca di tanti discorsi intelligenti sugli animali, intesi a dimostrare per mezzo di sillogismi se hanno o no l'anima. Mi pare che il livello di comportamento che vuoi cambiare sia troppo basilare, troppo fondamentale, per poterlo influenzare con dei discorsi. L'essere carnivori esprime qualcosa di autenticamente profondo circa gli esseri umani, proprio come avviene per i giaguari. Non ti verrebbe mai in mente di sottoporre un giaguaro a una dieta a base di semi di soia? Perché morirebbe. Gli esseri umani non muoiono se seguono una dieta vegetariana. È vero, ma gli esseri umani non la vogliono una dieta vegetariana. A loro piace mangiare la carne. C'è qualcosa di atavisticamente gratificante nel farlo. È questa la cruda verità. Come una cruda verità che in un certo senso gli animali si meritano quel che succede loro. Perché perdere il proprio tempo ad aiutarli quando loro non fanno niente per aiutarsi? Che cuociano nel loro brodo. Se mi chiedessero qual è l'atteggiamento generale nei confronti degli animali che mangiamo, direi il disprezzo. Li trattiamo male perché li disprezziamo. Li disprezziamo perché non si ribellano. Non posso dire di non essere d'accordo. La gente si lamenta che trattiamo gli animali come oggetti, ma in realtà li trattiamo come prigionieri di guerra. Il prigioniero di guerra non appartiene alla nostra tribù. Possiamo fare di lui quello che vogliamo. Possiamo sacrificarlo ai nostri dèi. Possiamo tagliargli la gola, strappargli il cuore, gettarlo nel fuoco. Non ci sono leggi che tengano quando si tratta di prigionieri di guerra. Ed è da questo che vuoi guarire l'umanità? John, non lo so che cosa voglio fare. So solo che non voglio starmene zitta. Molto bene. Ma di solito i prigionieri di guerra non si ammazzano, li si riduce in schiavitù. E infatti le nostre mandre e prigioniere non sono altro che popolazioni in schiavitù. Il loro compito è quello di riprodursi per noi. Persino il sesso diventa una forma di lavoro forzato. Non le odiamo perché non sono nemmeno più degne di essere odiate. Le guardiamo, come hai detto tu, con disprezzo. E tuttavia ci sono ancora animali che odiamo. I topi, per esempio. I topi non si sono arresi, si ribellano, si organizzano in comunità sotterranee nelle nostre fogne. Non sono vittoriosi, ma non sono neppure perdenti. Per non parlare degli insetti e dei microbi, possono ancora batterci. Sopravviveranno a tutti noi. Sostiene Vallauri. Perché il diritto degli animali, così avanzato nella teoria, è poi così poco effettivo nelle pratiche? Anzitutto non sono d'accordo che è così avanzato nella teoria, cioè le leggi di protezione proteggono in modo mostruoso. Per esempio, per proteggere i polli da carne si suggerisce di non metterne più di 33 kg in un metro quadrato, ma si ammettono deroghe fino a 42 kg. Ora, se un pollo pesa 2 kg, 30 sono 16 polli, 33 sono 16 polli in un metro quadrato. Tant'è vero che si scarnificano a vicenda. E allora c'è un'altra norma di protezione che dice che ad evitare plumofagia e cannibalismo si può tagliare il becco quando sono pulcini. Plumofagia significa che si mangiano le piume l'uno con l'altro, e cannibalismo che si divorano, si scarnificano. E queste sono le norme di protezione, quindi non è per nulla avanzato. Comunque, anche le parti che possiamo davvero chiamare avanzate sono poco effettive. I giuristi distinguono la validità formale e l'effettività di una norma. La validità formale è che ha tutti i crisi in Parlamento, Presidente della Repubblica, Gazzetta Ufficiale. L'effettività è l'osservanza da parte dei consociati. Per esempio, la legge sul fumo nei locali pubblici è effettiva, e la legge sul non parlare al telefonino guidando non è effettiva. Ora, quello che salta agli occhi è che tutti i permessi sono effettivi e tutti i limiti sono maledettamente ineffettivi. Da che cosa dipende? Dipende dal fatto che l'uomo è un animale stronzo. Io ho ripreso la vecchia definizione di Aristotele, animale razionale, zoon logon econ, l'animale dotato di discorso razionale, ma l'ho, conservandola tutta, l'ho anche, per così dire, fatta andare più avanti, perché un leone non può essere stronzo, un uomo sì, e può esserlo proprio perché, come dicevano gli scolastici, corruptio optimi pessima, cioè più sei un grande e più diventi poi grande anche nella malvagità e nell'errore. Per esempio Sant'Agostino è un gigante dell'errore perché era un genio. Ma mangia come parole, parli! Parole, non solo parole, parole tra noi. L'animalismo promuove la difesa degli interessi degli animali. Chiunque oggi potrebbe, a ragione, definirsi animalista, e contemporaneamente nessuno riuscirebbe a dare una definizione puntuale e condivisa del termine animalismo. Cercheremo di sgombrare il campo dalle ambiguità delle sue diverse sfaccettature: zoofilia, protezionismo, conservazionismo, animalisti radicali, liberazionisti, antispecisti, eccetera. Consideriamone tre, che riteniamo le più consistenti. Zoofilia. Lo zoofilo vede il problema animale come strumento per perfezionare la natura umana, che si continua a ritenere come centrale e superiore. Amare gli animali rappresenta un modo per far raggiungere all'uomo la dimensione di benevolenza, bontà e compassione e felicità che rappresenta il più alto ideale morale umano. Questa prospettiva può avere risvolti positivi per gli animali, ma costituisce pur sempre un atteggiamento caritatevole, ambiguo e paternalista, che continua a legittimare la proprietà e l'uso degli animali come mezzi per soddisfare i bisogni sociali. Gli zoofili non mettono in discussione l'allevamento e l'uccisione a scopo alimentare o la vivisezione. Si limitano ad affermare che occorre sostituire una condotta dura e disattenta con una condotta degna e rispettosa. Il protezionismo. I protezionisti guardano il problema anche dal lato della vittima, si riferiscono agli individui non umani e riconoscono la contiguità della sua natura animale rispetto all'essere umano. Introducono l'idea che la società non possa limitarsi a concedere benevolenza, bensì debba imporsi degli obblighi verso gli altri animali, limitando le sue libertà. Ritengono utopistico o improbabile che la società umana possa nel breve abbandonare i suoi comportamenti di dominio e, ponendosi obiettivi di lungo periodo, sono disposti a trattare per migliorare le condizioni di vita degli animali, in qualsiasi situazione di partenza si trovino. Questo li rende spesso oggetto di dure critiche da parte della corrente animalista cosiddetta liberazionista. Parallelamente, i protezionisti si occupano di costruire nell'opinione pubblica sensibilità e rispetto, sperando che in futuro si traducano nell'abolizione degli allevamenti e dei laboratori. L'antispecismo. L'orizzonte dell'antispecista non sono solo gli animali, ma è la condizione del vivente in generale. Ritiene che tutti i viventi, senza distinzioni, posseggano diritti naturali non negoziabili. Rifiuta con energia la presenza dell'animale non umano nella società, ritenendo che l'umano non abbia diritto di disporre degli animali non umani. Il suo attivismo è indirizzato all'inclusione dei diritti animali, non già nella società degli uomini, come nel caso degli zoofili o dei protezionisti, bensì in un generale riconoscimento delle esigenze del vivente. L'antispecista è portatore di un nuovo paradigma, di un nuovo modello di società dove le differenze fra le specie e all'interno della specie non si traducono in rapporti di gerarchia e di dominio. Siamo in chiusura, vi ricordiamo che le fotografie di Pierino e Sogno e tutti gli altri contenuti di questa trasmissione e delle puntate precedenti potete trovarli nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Aspettiamo le vostre mail, i vostri commenti, i vostri contributi su restiamoanimali@controradio.it. Appuntamento a domenica prossima, 8 aprile 2012, sarà il giorno di Pasqua, per una Pasqua gentile e cruelty free. Dalla redazione, quindi, Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Beatrice Montini, Giuseppe Coco e Lorenzo Guadagnucci, una buona settimana a tutti. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. In collaborazione con Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica da sempre dalla parte degli animali.